sappiamo che ci sono alcuni processi che sono in atto e che sono già in atto, diciamo, che probabilmente influenzeranno anche i processi futuri. Uno è sicuramente quello della escalation, cioè c'è stata da un anno a questa parte, ovviamente anche abbiamo avuto assaggio anche prima in termini di dell'occupazione israeliana e legale della Palestina, dei territori occupati. Da un anno a questa parte appunto c'è stata un'escalation militare e anche proprio a livello regionale, che è appunto arrivata persino, come sappiamo ormai, a coinvolgere l'Iran in maniera così diretta, che è evidente e sotto gli occhi di tutti. Il secondo processo, che secondo me è importante, è la totale mancanza di volontà politica da parte, diciamo, dei governi del nord globale, quindi nei governi dei paesi più importanti e più potenti militarmente, geopoliticamente ed economicamente, di intervenire per fermare questa escalation. Io sono un ottimista di natura, quindi, come dire, sono sempre portata a pensare che ci sia ancora spazio, che ci sia ancora tempo per una soluzione diplomatica, però almeno da quello che so il G7 chiamato di urgenza, chiamato da Giorgia Meloni, non ha sortito delle incisive decisioni o atti politici in questo senso. Quindi probabilmente continueremo ad assistere a questo atteggiamento da parte appunto di America del Nord, Stati Uniti e governi europei, di totale, se non supporto, appunto totale inazione rispetto a quello che deciderà di fare Israele. La terza e l'ultimo processo, che secondo me è interessante, è quello di, insomma, vedremo in realtà cosa succederà, nel senso che secondo me non è scontato che Israele risponda in maniera conclamata o comunque appunto con un'azione militare molto forte all'attacco che c'è stato da parte dell'Iran, perché effettivamente è già impiegato su diversi altri fronti, per cui bisognerà capire e vedremo che cosa succederà rispetto appunto allo dispiegamento di forze dell'IDF, delle forze di difesa israeliane, eventualmente anche su un teatro di guerra iraniano. Torno un attimo sull'atteggiamento delle potenze occidentali, in particolare degli Stati Uniti. Formalmente l'amministrazione Biden in questi mesi, soprattutto per quello che sta accadendo a Gaza, ha mostrato un po' anche del disappunto nei confronti della condotta israeliana, però di fatto non ha fermato quello che stava accadendo, ad esempio con uno stop alle forniture militari. Ora in mezzo ci finisce l'Iran, si è detto che gli Stati Uniti sono in un momento difficile a causa delle elezioni, ma questo è l'unico fattore? Sì, in effetti l'atteggiamento israeliano rispetto agli Stati Uniti è un atteggiamento che potremmo definire di sempre più forte indipendenza, sempre più forte autonomia, no? Non tutte le manovre, diciamo, militari, i vari attacchi che appunto Israele ha condotto non soltanto a Gaza ma anche nel sud del Libano sono in qualche modo state, diciamo, coordinate, o comunque non c'è stata sempre una comunicazione da parte del governo israeliano verso appunto l'amministrazione Biden. Tuttavia appunto però vediamo come di fatto ci sia stata da parte di Biden una totale inazione, come dicevi tu. Io non penso purtroppo che vedremo, nonostante le elezioni, nonostante appunto il lavoro gigante che stanno facendo gli attivisti e le attiviste per la liberazione palestinese all'interno del Partito Democratico, io purtroppo non penso che vedremo un cambiamento di marcia, comunque un cambiamento appunto di direzione all'interno del partito. Questo sicuramente è dovuto a dei calcoli elettorali, però credo che sia anche proprio dovuto ci siano tanti fattori. Io credo che ci sia anche un fattore proprio ideologico. Di fatto a nessuno, con questo clima di recessione democratica a livello globale, di fatto a pochissimi paesi, a pochissimi governi nel mondo, un modello di paese, un modello di governo come quello che incarna appunto Israele in questo momento sotto la guida di Netanyahu dispiace. Insomma, sicuramente a Trump un sistema repubblicano etnonazionalista non dispiace, come sicuramente non dispiace neanche a Giorgia Meloni. Però anche se guardiamo ai nostri, insomma, ad altre forze politiche che normalmente considereremmo liberali, probabilmente questo tipo di società, questo tipo di paese non dispiace neanche a loro. Colgo l'occasione, rispetto a quello che stavi dicendo, per farti una domanda che riguarda invece un po' il sistema mediatico. Sembra che sia stata, come dire, rispolverata la teoria dello scontro di civiltà tra Occidente e mondo arabo, che insomma già tanti danni ha prodotto in passato, è così? Sì, sicuramente Netanyahu ha fatto chiaro riferimento al noi versus loro, cioè questa difesa della civiltà, dei valori, della civiltà di questo fatto noi, no? Che sempre la geometria e geografia variabile durante la sua ultima comunicazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è di fatto un discorso e un modo di rappresentare la realtà che non passa mai di moda, per cui ad arte viene ripescato da politici o comunque appunto da persone che lo utilizzano. La cosa interessante per me è che vedere come questa idea dello scontro delle civiltà abbia comunque sempre più successo quando impiegata per descrivere e per alterizzare quella che viene chiamata la civiltà islamica rispetto ad altre civiltà. La teoria dello scontro della civiltà è stata ad esempio anche mobilitata per rafforzare il sostegno all'Ucraina quando fu invasa dalla Russia, però di fatto ha avuto molto meno attrazione. Invece quando si parla di alterizzare persone musulmane o popoli arabi, ecco che invece il razzismo funziona molto meglio.